Grand Hotel. Guido spinge un carrello, ma di colpo fa dietro front. Alle sue spalle, infatti, compare Rodolfo. Più in là, Guido viene chiamato da Ferruccio. Guido! Oh! Ma signora Guicciardini! Guido, sono proprio lieta di rivederla. Come va? Bene, grazie a lei. E la libreria? Ci siamo quasi, eh? Complimenti. Grazie. Senta, se permetto, dopo vorrei offrirle un pezzo di torta etiope. Etiope? Sì, è fatta completamente con l'uovo di struzzo. Di struzzo? Sì. Guido! Signora Guicciardini! Generale Graziosi, come va? Le poesie le sono piaciute, ha detto che forse me le pubblica. Te l'avevo detto, eh? Oh, mi raccomando, ha detto che stasera offrivo tutto io, non fare scherzi. È tutto organizzato. Voi vi mettete là, a quel tavolo degli invitati, fate finta di essere invitati anche voi, no? Tutto offerto, eh? Ma che paga, che festa è? È una promessa di matrimonio. A proposito, ma lo sai chi si sposa? No, chi si sposa? Non te l'ho detto? No. Lo scemo delle uova. Secondo me non viene, ancora non è arrivata. Continui a aspettare. Guido, sono due ore che ti cerco. Che succede? Tuo zio. Mio zio. C'è qualcosa. Vieni, vieni. Dove? Fuori, fuori. Il cavallo. Il cavallo è tutto dipinto di verde. Ma cos'è? Mamma mia, che? Sì, ma che è il tuo cavallo? Ma che impressione, ma che hanno fatto? L'hanno truccato, che hanno scritto? Achtung, cavallo ebreo. I soliti barbari, i vandali, è proprio triste, che stupidaggine. Cavallo ebreo. Dai, zio, su, non te la prendere, dai, l'hanno fatto per... No, non l'hanno fatto per, l'hanno fatto per... Ti ci dovrai abituare, Guido. Cominceranno pure con te. Con me? Dai, zio, e che vuoi che mi succeda? Massimo, mi spogliano, mi dipingono tutto di giallo e mi scrivono Achtung, cameriere ebreo. Dai, zio, su, non lo sapevo mica che era ebreo questo cavallo, zio. Dai, andiamo, te lo strucco io domattina, non ti preoccupare. Lo riporti nella sala, Roberto. Dall'ingresso del Grand Hotel fanno apparizione Dora e la madre. Dora è intimidita. Guido scende le scale allegrissimo. Incontra Ferruccio. Oh, guarda lì, lì, davanti a te. No. Dora. Aspetta, che faccio una sorpresa. Fa per avvicinarsi alla ragazza. Ma anche Rodolfo si sta avvicinando. Dora? Dora, ciao. Vieni, voglio farti conoscere Fido Giovanardi. Chi? Fido Giovanardi. Guido prende velocemente un vaso di fiori da un tavolo e vi si nasconde dietro. Guido! Ehi! Dottor Lessing! Ma dove va? Telegramma urgente. Partire immediatamente per Berlino. Oh, questi fiori. Sono per lei, per la sua partenza. Uno lo prendo. Lo porta a mia moglie. Fiore di Guido. Sono stato molto bene con te, Guido. Sei il cameriere più fantasioso che abbia mai conosciuto. Grazie, dottore. E lei è il cliente più colto che abbia mai servito. Grazie. Arrivederla, dottor Lessing. A proposito, se fai il mio nome, non ci sono più. Ci sono. Se fai il mio nome, non ci sono più. Non ci sono più. Che c'è? Che è detto? Il silenzio. Bellissimo. Se fai il suo nome non c'è più. Il silenzio. La lunga tavolata dei promessi sposi è animata dal discorso della direttrice didattica. Terza elementare. Ascoltate questo problema. Me lo ricordo perché mi ha colpito. Problema. Un pazzo costa allo Stato 4 marche al giorno. Uno storpio, 4 marche e mezzo. Un epilettico, 3 marche e 50. Visto che la quota media è 4 marche al giorno e i ricoverati sono 300.000, quanto si risparmierebbe se questi individui venissero eliminati? Soppressi? Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io, Dora. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che un bambino di 7 anni risolva un problema di questo genere. Il calcolo è complesso. Le proporzioni, le percentuali, ci vuole un minimo di informazione algebrica, no? È un problema da scuola superiore per noi. Ma no, basta una moltiplicazione. Quanto ha detto che sono questi storpi? 300.000? Sì. 300.000 per 4. Se li ammazziamo tutti risparmiamo 1.200.000 marchi al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei grande e grosso. In Germania lo propongono ai bambini di 7 anni. Veramente un'altra razza. In quel momento posano una torta davanti a Dora. Buongiorno, principessa. Come hai detto? Buongiorno, principessa, la vedi qui sulla torta? Lei si guarda in giro, si alza e negli occhi le si accende un sorriso. Fa per allontanarsi dal tavolo quando l'orchestra attacca a tutto vapore un foxtrot irresistibile. Dora, Dora, ma che fai impalata? Dai, andiamo, andiamo a ballare, su. Rodolfo la trascina al centro della sala. Allegrissimo. Dal soffitto comincia a scendere una suggestiva pioggia di coriandoli bianchi, rossi e verdi che cade su tutto e su tutti. Sulla direttrice e il suo cavaliere, sulla Guicciardini e il generale, su Ferruccio e la sua dama, su Laura e il prefetto e su Rodolfo e Dora, che continua ad esplorare la sala con lo sguardo. Guido, tutto contento, cercando con gli occhi la sua innamorata, esce dalla cucina con un vassoio in mano. Grazie, grazie, grazie. Solo due parole, perché ormai sapete già tutto e lo sapete già da diversi anni. Dora e io siamo nati nella stessa via, siamo stati a scuola insieme, abbiamo frequentato gli stessi amici, siamo sempre stati insieme. L'unica cosa che non abbiamo fatto insieme è il servizio militare. insomma, Dora è la donna della mia vita e io l'uomo della sua vita. E quindi abbiamo deciso di sposarci entro l'anno. Siete tutti ufficialmente invitati, è il 9 di aprile, alla Basilica di Santa Maria del Pellegrino. E poi festeggeremo fino all'alba, ancora qui, ancora noi, tutti insieme, con lo stesso buon umore. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Dora gli offre semplicemente le guance. Guido sta per terra come un rospo senza vita, tra pasticcini e dolcetti. Guido, aiutami! Come stai? Ti sei fatto male? Chi, io? No, sono inciampato. Ah. Oh, hai sentito? Che? Cosa? No, niente, niente. Vai, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Faccio da solo, grazie, grazie. Che è successo? Ciao, no, niente, sono inciampato, una cosa da niente, grazie. Allora sistemo tutto, grazie. Sì, sì, grazie, sistemo. Ciao. Guido vede Dora che balla col fidanzato e poiché ha la testa girata va a sbattere contro una poltrona. Un cameriere accorre. Guido, ma che ti succede? Niente, niente. Come stai? Bene, bene. Sopraggiunge Ferruccio con un barboncino in braccio. Lo posa a terra. Come stai? Sto bene. Mi dispiace. No, ma mi sono mica fatto nulla. No, dicevo per... La Guicciardini. Sta tutto a posto. Bene, vai, vai, non la lasciare sola, vai, vai. Faccio io. Andate, faccio io. Faccio io, grazie. Ecco. Guido raccoglie gli oggetti caduti, mentre lo zio gli si fa di nuovo vicino. Guido. Zio. Come stai? Bene, bene, sto bene. Ma perché mi chiedete tutti questo? Ricci, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di strano? No, non c'è nulla che non vada. No. Però, vai in cucina. Va bene. Guido. Sì? In cucina. Ma hanno spostato tutto stasera. Ma guarda dove hanno messo la cucina, eh? Si avvia sollevando il vassoio sulla testa degli ospiti. In cima fa bella mostra di sé il barboncino. Un giovane fascista in divisa si è avvicinato al tavolo dei fidanzati. Che ti sei rincitrullito? Bruno! Signorina, finalmente ti conosco, Dora. Non ci aveva mai presentati. Hai paura, vecchio marpione? Ora non hai più bisogno di venire a casino con noi. Scusate se ho disturbato, auguri e felicità. Faccio Martione. Che ragazza allegra. Signorina Dora, congratulazioni. Adesso potremo vederci più spesso a casa mia a cena, visto che... Rodolfo. Buonasera, signor prefetto. Complimenti. Grazie. Signora. Caro Guido, entrando in sala, si scontra con un cameriere. Non è successo niente. Raccolgo tutto io, raccolgo tutto. Scusate. Dora ha assistito alla scena e lo vede sparire sotto il tavolo. Decide di raggiungerlo. Principessa, anche lei qua? Dora si avvicina ancora e senza esitare lo bacia sulla bocca. Un bacio lungo, buffo. Le labbra si separano e lei si fa seria. Portami via. Poi si gira su se stessa e piano piano torna indietro. Volta il capo e gli sorride ancora. Lui la saluta con la mano. Ed ora, signore e signori, un superbo spettacolo offerto dalla direzione dei Grand Hotel. La torta etiope! Quattro etiopi, forse ascari in costume folcloristico, portano in spalla giù per le scale un baldacchino con sopra l'immensa torta etiopica. Gli ascari si stanno dirigendo verso il tavolo dei fidanzati. Dall'ingresso principale sta entrando nell'albergo un uomo in smoking, su un cavallo verde locusta. Un'immagine surreale. Un signore che stava agitando una bottiglia di champagne si ferma. Guido! Guido è in groppa, la faccia accesa da un grande sorriso. Tutti presi alla sprovvista rimangono senza fiato. Il cavaliere fa il giro della sala, passa davanti ai musicisti, prende la bottiglia di champagne dalle mani del signore che la stava stappando e fa un gesto all'orchestra. Oh, grazie! Musica, maestro! Guido a cavallo finisce il giro della sala e si ferma davanti ai festeggiati. Auguri! Grazie! Prego, principessa. Guido invita Dora a salire sul cavallo. Veloce, principessa. Dora esita, ma solo per un attimo. Rodolfo fissa il cavaliere con un grave sospetto. Lei si accomoda sul cavallo fra le braccia del cavaliere. Guido offre la bottiglia di champagne a Rodolfo. Tutti sono convinti che si tratti di una messa in scena e il cavallo riparte verso l'uscita. Quello è lo scemo delle uova! Parte il tappo della bottiglia, sbatte sul soffitto e urta sull'uovo in bocca allo struzzo finto sulla torta. L'enorme uovo cade giù e va a fracassarsi sulla testa del povero Rodolfo. Guido è già sceso da cavallo e ora aiuta Dora a venir giù dalla groppa della bestia. Si avvicina al portoncino della casa e cerca in tasca la chiave con sempre maggiore ansia. No, Ferruccio, le chiavi di casa ce l'ha lui, porca miseria, l'ha prese lui. Ma il fil di ferro, se trovo un fil di ferro la prego, sì, ecco qua. Sono un mago col fil di ferro, me l'ha insegnato il mio babbo, mi ci facevo tutti i giocattoli da piccini col fil di ferro. Ecco, uno, due, tre. Guido si volta verso Dora, ma la vede varcare la porta della serra. Decide di seguirla con il cuore che gli batte a mille. Entra anche lui nella serra. La porta rimane aperta. Al di là un silenzio misterioso, assorto. Che fai passare della mamma? Avevo perso il carro ormai. Vabbè, dai, lo ritroviamo. Andiamo. Non ce la fa. Dove l'hai lasciato il carro? È lì sulle scale. Eh? Lo prendo io, su. Giosuè è un ragazzino di 6 anni, vispo, magrissimo, con i calzoncini corti, la camicia linda e le bretelle. Andiamo, eh? Oh, e vai! Vai, Peppo! Piano, piano! Piano! Andiamo a scuola, vai! Oh, ciao cavallo! Ciao cavallo, ciao cavalli! Ciao cavallo! È un'estate calda e luminosa, ma non c'è molta allegria in giro. Ogni tanto si vede un camion militare tedesco. I monumenti non si vedono più perché protetti da sacchi di sabbia. È tutto così diverso da prima. Tragici e desolanti appaiono i segni della guerra. Arrivati. Ci vediamo stasera. Ciao. Ciao, mamma. Ciao, Dora. Ciao. Vai forte, babbo. Sì. Uno, due e tre. Padre e figlioletto procedono a piedi. I due si fermano davanti ad una pasticceria. In vetrina pochi dolci ed un cartello. Lo compriamo per la mamma? Quanto costa? 15 lire. 15 lire? No, ma quella è finta, c'è una torta finta, è come tuo carro armato. Andiamo, andiamo, vai, andiamo, Giosuè. Andiamo, andiamo, Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro, per esempio, non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi in libreria facciamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te? I ragni, te? A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh, mi hanno rotto le scatole questi visigoti e basta. Guido e Giosuè sono in libreria. Il padre mette in ordine dei libri. Entra un signore dall'aria arrogante, un altro resta fuori con la sigaretta in bocca. Buongiorno. Eccomi, tutto a metà prezzo, eh? Orefice Guido? Sono io, dica. Devi venire con me in prefettura. Un'altra volta. C'è già stato. Andiamo. Ma a fare che? L'uomo fuori spegne la sigaretta sulla vetrina. Quel signore è con lei? Sì, andiamo. Va bene. Vengo anch'io, babbo. No, no, no, te stai qui, che tanto è questione di poco, no? Di pochissimo. Lo vedi, Ciao, oh, Giosuè, tratta bene i clienti, mi raccomando. Ciao, torno subito. Giorno. I tre, Guido in mezzo, si allontanano. Giosuè si affaccia sulla porta. Guido se ne accorge e procede con un buffo passo dell'oca per far divertire il ragazzino. Si gira e gli fa l'occhiolino. Giosuè raccoglie da terra i libri caduti di mano al padre e li rimette nello scaffale. Entra nella cartolibreria sua nonna Laura, è pallida, gli occhi accesi dalla commozione. Buongiorno. Buongiorno. La signora si muove lentamente, fingendo di guardare i libri. In verità non stacca gli occhi dal nipotino. Sceglie un libro qualsiasi. Lei gli si ferma davanti e lo fissa. Giosuè alza gli occhi. Prendo questa. Costa 5 lire. No, c'è scritto 10 lire. È tutto a metà prezzo. Laura estrae dalla borsetta una busta. Questa gliela dai alla tua mamma e le dici che è da parte della nonna. Mila, mia nonna non la conosco, non l'ho mai vista. Ti piacerebbe conoscerla? Sì. Domani la conoscerai. Domani? Sì, perché domani è il tuo compleanno. Verrà la nonna e ti porterà un bel regalo. Un carro armato nuovo? No, una sorpresa. Dai la lettera alla mamma. Ciao, Giosuè. Ti sei scordato il resto, nonna. Laura si gira, commossa e sorridente. Grazie. Fra quanto arrivi? Fra un'oretta, passo dallo zio a vedere se ci porta qualche avanzo del Grand Hotel per domani, eh? Ciao. Ciao. E poi cosa ha detto la nonna? Vieni domani. Sulla saracinesca è scritto negozio ebreo. Era ora. Casa dello zio ha cambiato aspetto. E tu ora devi fare il bagno. Non lo voglio fare. No, vai a fare il bagno. L'ho fatto venerdì. È vero, l'ha fatto venerdì, l'ha fatto. E tu cambiati la camicia. E io, ma l'ho cambiato giovedì. Non mi dimenticate i fiori, eh? Ah, sono qui fuori, l'ho cercato, li vado a prendere. Esatto. Josué vede un comodino sfondato, ci si infila velocemente entrando dallo sportello. Chiude mentre rientra Guido. Ecco, dove li mette i fiori? Oggi lì che la vengo. Va bene. Li posa sul comodino. Torna indietro, apre lo sportello e vede Josué. L'ho fatto venerdì. Josué? Josué? Sai dove è finito Josué? Boh, non lo so, boh, deve essere di là. Senti, quella roba là la sistemi tu? Certamente. I fiori, me li fai vedere, sembrano così belli. Sono bellissimi, te li porto su. Vuoi vedere i fiori? Sì. Te li faccio venire subito. Allunga le mani verso il comodino agitando comodino, le dita. Vieni, vieni, comodino! Schopenhauer, la volontà, voglio che il comodino venga, vieni, comodino! Il comodino viene avanti a piccoli passi. Basta, comodino! Questo comodino sembra molto sporco. Lo sportello si apre. Buongiorno, principessa! Il calesse con Dora e sua madre si ferma davanti alla casa dello zio. E sa già leggere e scrivere. Da più di un anno. Sei stata brava. Siamo arrivati. Ti aiuto a scendere, mamma. No, no, faccio da sola. Le due ante della porta di casa sono completamente spalancate. Per terra, disfatto, il Pinocchio di Josué. La tavola è rovesciata. Dora fa un passo indietro, terrorizzata. Dora, che c'è? È da molto che viaggiano. Il camion militare è pieno di gente sudata, stanca, spaventata. In fondo, accanto alla cabina, Guido e Josué. Di fronte, lo zio, taciturno. Siamo arrivati? No, è un passaggio a livello, eh. Vieni qua. Adesso, babbo, me lo dici dove andiamo? Come dove andiamo? Ma dai, andiamo... Dai, me l'hai chiesto mille volte. Andiamo lì... In quel posto, come si chiama? Andiamo. Ma dove andiamo? Vai, ma che giorno è oggi, scusa? Ma è il giorno del tuo compleanno, Josué. Ma avevi sempre detto che volevi fare un bel viaggio, no? Vedi, ci ho messo mesi e mesi per organizzare tutto, Ma scherzi? Sai dove andiamo? Non te lo posso dire, l'ho promesso alla mamma, mi ha detto, non glielo dire. Sai come è fatta lei? Poi si arrabbia, no? Me l'ha organizzata anche a me mio babbo quando ero vicino, È una cosa che mi fa morire da dire, perché andiamo, non me lo far dire, non te lo voglio dire, perché voglio che lo vedi da te, guarda, è una cosa, una sorpresa proprio, davvero mi viene da ridere. Ho sonno, babbo. Dammi. Zio, ma dove andiamo? Dove ci porta? Dora, tesa, angosciata, è seduta sul sedile posteriore di un'automobile. Il tassista rallenta nello spiazzo davanti alla piccola stazione. Soldati tedeschi e fascisti fanno la guardia. I prigionieri salgono sul treno spinti dai soldati tedeschi. Oh, ma che ore sono? Oh, partiamo proprio in orario spaccato, Che organizzazione, Non l'hai mai preso il treno, vero Josué? No, com'è, bello? Ma è bellissimo, devi vedere, dentro è tutto legno, senza sedie, tutto in piedi. Non ci sono le sedie. Ma scherzi, le sedie in treno, ma si vede che non l'hai mai preso, No, si sta tutti in piedi, tutti attaccati, Ma scherzi, guarda, ma vedi che fila c'è? Oh, ho fatto tempo a prendere gli ultimi biglietti per miracolo. Andiamo, sì, non vorrei che si dicessero troppo tardi, qui è tutto pieno, tornato a casa, Oh, fermi, siamo prenotati, fermi. Lasciate un posto, Guarda che fila. Vai, Josué. Eccoci. L'abbiamo prenotato, Grazie. Vai. Dora è nella cabina del capostazione. Mi dica, signora. C'è stato un errore. Che errore? Chi è lei? Mio marito e mio figlio sono su quel treno. Come si chiama vostro marito? Orefice Guido. Orefice Guido. Anche Orefice Josué e Orefice Eliseo sono sul treno. Non c'è errore. Dove c'è errore? Voglio salire su quel treno anch'io. È tutto pronto? Allora fai partire. Vai, parti pure! Torni a casa, signora. spara. Voglio salire su quel treno. Dora resta ferma, sempre più dura in volto. L'ufficiale si ferma sulla soglia e fissa a lungo la donna. Mi faccia salire su quel treno! Alzi! Alzate su, cane! L'ufficiale osserva Dora e con un piccolo cenno del capo la invita a salire sul treno. Dora, senza esitare, esce sul marciapiede. Dora, mamma! Dora. L'ho fermato il treno per far salire la mamma. Nella feritoia dello sportellone, accanto al viso di Giosuè che guarda fuori, compare il volto di Guido che lo tiene in braccio e poi quello dello zio. Dora si avvicina al vagone e si arrampica. I soldati tedeschi chiudono il portellone e lo sbarrano. Il treno riparte. Lager, piazzale. È notte. È il punto d'arrivo del treno. I binari finiscono su un pesante respingente di ferro e di legno alla fine di un largo spazio terroso, circondato da tetre costruzioni in mattoni grigi piene di finestrelle con le inferriate. Macchie di luce bianca, violenta, scandagliano il campo di concentramento. Non c'è nessuno. Sottufficiale tedesco si affaccia alla finestra dell'ultimo piano della palazzina che fa da alloggio militare. Beve il suo caffè guardando verso il piazzale, dove è ancora fermo il treno. Ai due lati soldati tedeschi armati stanno aprendo gli scompartimenti e sistemando le pedane di discesa. La pallida luce della mattina inquadra i prigionieri distrutti, angosciati, stravolti. Le donne vengono fatte scendere da un lato del treno, gli uomini dall'altro, con comandi secchi, spintoni, minacce. Appena sceso, Guido affida Giosuè ancora semi addormentato allo zio e corre nella confusione a cercare Dora. Ma le donne sono dall'altra parte. Dora! Dora! Lei si volta, lei si illumina per un momento il volto. Per un momento solo, perché un soldato tira giù Guido con violenza, urlando. Gli uomini sono tutti confusamente allineati e procedono lenti verso le porte delle camerate. Ciao, Giosuè. Hai visto? Sei contento? Hai visto che posto, eh? Sei un po' stanco? Sì, non mi è piaciuto il treno. Nemmeno a me mi è piaciuto. Allora, al ritorno si piglia l'autobus, eh? Oh, noi al ritorno prendiamo l'autobus con le sedie, con le sedie. Gliel'ho detto. È meglio. Anche secondo me. Hai visto? Tutto organizzato, Qui c'è visto che fila di gente. C'è la gente fuori che fa la fila per entrare, gente che si buca, vogliono entrare tutti qua. Me lo dici, babbo, che gioco è? Bravo! Come che gioco è? Proprio il gioco della cosa, il gioco... È il gioco della... Noi siamo tutti concorrenti, no? Hai capito? È tutto organizzato. Poi ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno tutti gli orari. Oh, è difficile, non è facile, eh? E poi, se uno sbaglia, lo rimandano subito a casa, subito. Quindi bisogna stare attenti, Giosuè. Però, se si vince, si prende il primo premio. Lo dici che premio è? È il primo premio, te l'ho detto. È un carro armato. Qui ce l'ho già un carro armato. No, è un carro armato vero, nuovo. Vero? No. Sì, non te lo volevo dire. Tu, in baracca, tu. Dove va lo zio? Altra squadra, tutto organizzato, no? Ciao, zio. Ciao. Alla, alla, stai tu parlando. Un carro armato. Entrano nella camerata e si bloccano spaventati. È uno stanzone lurido, nauseabondo. I letti sono a castello, ammassati su tre piani. Buttati sulla metà dei letti, giovani invecchiati dalla fatica, magri e silenziosi. Niente, avevo detto, Giosuè. Una cosa eccezionale, eh? Che posto! Oh, andiamo, se no ci piegano il posto. Oh, siamo prenotati noi, eh? Due singole! Vieni, vieni! Oh, permesso? Permesso? Eccolo qua, dov'è? Eccolo qua, vedi? Dormiamo qua, ci stringiamo, Giosuè. Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo, Ho fame. Mangeremo. E poi sono cattivi, urlano. Urlano perché, il bambino è grosso, un carro armato vero fa gola a tutti, sai, devono essere duri, Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Non ci credo, se lo danno la merenda. La merenda? La merenda... Basta chiedere, sono tutti amici qua, sai. Eccoli, guarda chi c'è cosa... Bartolomeo. Bartolomeo, ti volevo chiedere una cosa, scusa. È già passato quello che dà il pane con la marmellata? Che miseria, si è fatto tardi per un secondo. Ripassa comunque, no? Per il secondo turno, ce la dà. Ripassa. Atton! Che tu sia venuto a allenare a Deutschland? Che ha detto? C'entra uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Subito Guido alza la mano, il caporale gli fa cenno di avvicinarsi. Che sia tedesco? No. Guido si affianca al caporale. Alessandro, Isagras, Gloheimar! Comincia il gioco! Chi c'è, c'è? Chi non c'è, non c'è! Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti! Il primo classificato vince un carro armato, vero? Und zur Arbeit! Beato lui! Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tod bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Cosa c'è alles? Dal bigocche. Und noch etwas. Lui di fragole. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Non chiedete i lecca lecca, perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Antreten zwei Eier. Io ieri ne ho mangiati 20. Schwankt. Mal di faccia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Is Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Scusa, ma... No, non mi chiedete niente a me, chiedete tutto a Bartolomeo, lui sa tutto, mi dice tutto lui, dopo ve lo dice anche a me che ha detto, 1000 punti. Te l'avevo detto, chi si diverte? Un'immensa fonderia dove i prigionieri, tutti in divisa a strisce, lavorano incessantemente. Vittorino, io non ce la faccio più, Vittorino. Già la prima. Ma perché mi vuoi portare un'altra? Oh, fino a stasera, qui. Stai dentro. Oh, Bartolomeo, che hai fatto, dove ti porto? In infermeria. Mi sono fatto male un braccio. Sì, vai, mamma mia, qui si muore, Vittorino. Oh, Io non ce la fa più. Io la metto a terra. Gli dico non ce la fa. Che mi possono fare? T'ammazzano! T'ammazzano! Dove bisogna portarla? Laggiù! Oh, porca la miseria, non ce la fa! Non ce la fa! Vittorio! Mi sarà 10.000 grazie! Camerata di Guido. Il piccolo Giosuè è solo e, seduto sulla branda, aspetta il ritorno del padre. I prigionieri rientrano in camerata tutti malcerti sulle gambe, si lasciano cadere sui letti esausti. Mancano Bartolomeo e Guido. Giosuè fissa la porta aperta. Nelly! Ecco finalmente Guido. Entra, che sembra quasi ubriaco. Babbo! Babbo! Giosuè gli salta in braccio. Giosuè, che c'è? Ecco, guarda qua, hai visto? Bella, eh? Guido, respirando a fatica, gli mostra la divisa a righe. Siamo iscritti, siamo, eh? E quando sono arrivato là per l'iscrizione, Giosuè, c'era l'arbitro, mi ha fatto: se no, lei e suo figlio qui non risultate, non avete pagato la quota. Mi ha fatto venire un colpo, dico, oh, dice, potete tornare a casa. Dico, no, a casa ci vai te. Gli ho detto, io e Giosuè siamo iscritti. Ma scherzi, dammi il numero. Infatti me l'hanno dato, guarda qua, bello, per sicurezza me lo sono fatto mettere anche qui, vedi? Gli mostra il polso. Ma visto, e babbo, Giosuè, che dove ti porta, che per posto, Senti, hai giocato con i bambini oggi? Sì, ma i bambini non sanno proprio le regole. Mi hanno detto che non è vero che se vince un carro armato non sanno che bisogna fare punti. Ci sei cascato! Loro sono furbi come le volpi perché lo vogliono vincere loro. Ma scherzi, non c'è il carro armato. Non ci cascare, Ma quanti punti abbiamo fatto oggi? Oggi io 50. Vabbè, 48. Mi hanno levato 2 punti perché sono inciampato mentre giocavo a campana, no? Sono inciampato. Vabbè, guarda, la schiantata lì, Giosuè. Sono morto da ridere, come mi sono divertito. Non vedo l'ora di ricominciare domani, guarda. E a campana, e ruba bandiera, e giro tondo, tutti i giochi, che mi ricordo neanche. Ma voi siete fissati, basta. Sono stanco, gli ho detto. Senti, hai mangiato qualcosa? Sì, ma non l'ho chiesto la merenda. Bravo! Allora se non l'hai chiesto hai fatto 12 punti anche te. 48 io allora, 12 te, 60. A 60 punti abbiamo guadagnato già questo pezzo di pane senza la marmellata, Giosuè. Guarda, tieni, mangia. Grazie. 60 punti sono tanti? Porca miseria, ma scherzi. 60 punti sono tanti, sì, sono proprio tanti. Si spalanca la porta della camerata. Oh, guarda che c'è. Bartolomeo. Com'è andata allora? Peggio di così, mi hanno dato 20 punti. Abbiamo fatto dei rumori. Voglielo dire, siamo in testa. Le donne, tutte in divisa da prigioniere, vengono fatte scendere giù per una scala stretta e ripida. Non ci ho detto! 20 bambini no! Dentro! Voi non lavorate! Giù! Vai, giù! Andiamo ragazze, su svelte, su belle, di qua. Questa è una nuova, ha imparato subito. Quella di sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona, è la peggio di tutte. Almeno non ha mandato le vecchie bambini a lavorare. Senti, le vecchie bambini non li mandano a lavorare perché li ammazzano tutti. Uno di questi giorni li chiamano per fare la doccia. Bambini, la doccia, la doccia. Solo che la doccia gliela fanno lì, nella camera a gas. Dora ha un tuffo al cuore, si ferma e si accosta ad una finestra, da dove guarda una piccola costruzione sinistra poco lontana. Ma come si può? Intanto, nella fonderia, Guido trasporta la sua ennesima incudine. Ma dove l'hanno trovata tutte queste incudini? Babbo! Giosuè, che ci fai? Non ci puoi stare! Vai via, non ti fa vedere! Vai via, perché lo stai con gli altri bambini? Sentito dire che i bambini devono fare la doccia, io non la voglio fare. Vai a fare la doccia. No! Sì! No, non ci vado! Sì, vai, fare la doccia così! E che fate, papà? E stiamo facendo la... il carro armato! Si costruisce il carro armato! Siamo ancora i singoli! Siamo indietro! Ci diverte! Non ci puoi stare qui così! Vai a fare la doccia, vai! Non ci voglio andare! Testa dura! Io dico alla mamma, perdi 10 punti, perdi! Nasconditi lì dietro! Che quando ho finito si torna insieme! Non ti fa vedere, eh! Ci diverte! Giosuè si nasconde.